fossi io viene lento divagar una musica brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. È indubbio che da qualche tempo a questa parte siamo deliziati da alcune avventure, avventurette, piccole incursioni, notturne lucubrazioni, sotterranee palpitazioni e palpazioni di personaggi noti, noti, potenti, appartenenti appunto agli apparati dello Stato, agli apparati del parastato, comunque illuminati dalla celebrità. Questa è una circostanza abbastanza singolare, perché nella mia memoria storico-biografica non c'è mai stato un periodo così intenso di tali rivelazioni. Nei decenni che hanno preceduto questo meraviglioso momento di esternazione di attività ginnico-sessual, oral, contemplative di personaggi noti dello spettacolo, della politica, dell'industria, del pensiero, erano eventualità molto rare, se ne parlava per mesi, per anni, ci si scriveva libri sopra. Filippo Ceccarelli, che è un carissimo, amatissimo e stimatissimo collega, ha scritto due libri sul letto e il potere, ma questi libri abbracciano un periodo vastissimo, uno tutto sulla Prima Repubblica, dalla Costituzione agli anni Ottanta. Per farlo ci ha messo tantissimo tempo, su degli episodi si entra, si riesce, ci sono un'infinità di sfaccettature, ma gli episodi erano 3 o 4, dal caso Montesi fino alle donnine di Craxi, cioè poco e mezzo da mettere dentro. Però invece improvvisamente, nel giro di un anno o due, abbiamo scoperto innanzitutto un dato di fatto insospettabile per noi, che i grandi fanno le stesse cose che facciamo noi. Ma un altro dato che ci chiediamo continuamente, dice, perché i grandi, che possono fare tutto quello che vogliono, che hanno a disposizione alberghi, case, autisti, aerei, possono fare quello che pare, si fanno beccare con il socio in bocca in maniera così ridicola? Voi dite, li intercettate, poi ci sono dei meccanismi, poi ci sono delle dietrologie infinite, ci sono gruppi di poteri contrapposti, esiste il potere della stampa, esiste la voglia di sputtanare, esistono tante mettiamo tutto per scontato, tutto ciò di cui si parla e si scrive esiste veramente un grande apparato che ha dossierizzato tutti i personaggi dal più infimo al più eccelso e in momenti strategici tira fuori alcune vicende, alcune questioni legate comunque a piccole debolezze carnali per usarle come strumento politico, strumento di pressione. Pensate o non pensate, ma non è questo quello che mi interessa stamattina. Stamattina mi interessa ragionare su qualcosa che sta dietro questo atteggiamento di non stare attenti, di avere una sorta di presunzione di invulnerabilità talmente forte, talmente concretizzata, talmente sedimentata, talmente vissuta all'interno, che in una fase della vita di un essere umano, quando è baciato, abbracciato, corroborato dalla notorietà, dal potere, dal riconoscimento, improvvisamente è come se sentisse trasparente, come se sentisse ormai già aleggiante in un altro tipo di dimensione, per cui può fare quello che vuole che nessuno lo veda, quando in realtà, come appunto il pelide Achille, sì, è invulnerabile perché fu intinto appunto nel sangue che lo rendeva invulnerabile, però si sa benissimo che colei che lo intinse per reggere quel bambinello appoggiava le dita sul talloncino del bambino, e laddove appoggiava il pollice e l'indice della nutrice, mi pare di Achille, poi adesso in questo momento non mi sono portato bene a memoria il pezzo di mitologia, lì rimane la vulnerabilità di Achille. Infatti fu ucciso da un dardo che lo colpì proprio nel tallone, nel posto segreto dove era invulnerabile. Beh, questa mattina vi vogliamo parlare, riflettere e invitare a discutere su quello che è il complesso di Achille. Achille che dimentica che ha il suo tallone vulnerabile e quindi affronta come se fosse totalmente invulnerabile il fuoco nemico. La signora ha reso dei chiarimenti sia per quanto riguarda i viaggi e sia per quanto riguarda gli incontri avvenuti con Del Bono. Il Cinzia Gate si arricchisce insomma di nuovi particolari. La donna che con le sue dichiarazioni sui presunti viaggi di piacere pagati dal contribuente ha portato alle dimissioni il sindaco di Bologna. Un ricatto di 300.000 euro sarebbe stato fatto ai danni di Lapo Elkan e riguarderebbe foto compromettenti scattate dopo l'episodio del ricovero per overdose che risale al 2005. Abbiamo molto facilmente, senza nessun tipo di problema e fatica, raccolto un po' della roba che è girata in questi tempi. È girato veramente di tutto e continua a girare di tutto. Ci sono sempre numerose e meravigliose occasioni poi di individuazione di questa che chiameremo la sindrome di Achille. La sindrome di Achille che appunto nei potenti e nei politici fa sì che essi dimentichino che hanno il tallone vulnerabile. Oggi Massimo Gramellini nel suo Buongiorno sulla Stampa cita l'onorevole Sniffa. L'onorevole Sniffa è diventato un eroe nazionale questa mattina. È un'altra persona che probabilmente soffre di sindrome di Achille, che non sa di avere un tallone vulnerabile. Il sottosegretario Giovanardi ha reso noto giorni fa l'esito di questa iniziativa che ogni tanto fanno i parlamentari italiani per far vedere che sono tutti buoni. Oltre 200 parlamentari sono sottoposti all'esame del capello per dimostrare che loro non fanno uso di droga. Beh, di questi 200 naturalmente tutti sono risultati negativi, soltanto uno ha risultato positivo. Non si sa il nome naturalmente per privatezza, però si sa che questi 200 uno sniffava, è stato beccato. Gramellini si chiede quale sia la vera anima dell'onorevole Sniffa. O è uno a cui hanno fatto una terribile polpetta avvelenata, nel senso gli hanno dato una bustina, dice Gramellini, dicendo ritieni zucchero e altra cocaina, così è risultato positivo al test e quindi l'hanno sputtanato. O una persona, poverino, talmente ingenuo o talmente poco dotato di intelligenza e quindi sofferente di sindrome di Achille, che è andato a fare il test lo stesso pur sapendo che aveva sniffato. O una terza fanta ipotesi, sollevata appunto da Gramellini, che in realtà se una persona così crudele, così sadico nei confronti degli altri 700 colleghi che non hanno voluto fare il test, cioè noi non lo facciamo, quindi tutti in sospetto di sniffaggio, dice vedi, mi hanno beccato a me, quindi adesso tremate, tremate, che potrebbe toccare anche a voi. Eccomi, allora domenica prossima alle 8. Di quello che parlavamo prima? Sì, sì, una cosa mega galattica. Chiudo il circolo 2 ore prima. Festa al centro benessere. Un po' di frutta prima, champagne, frutta, un po' di colori fuori, cose. Senti, quante situazioni devo creare? Una, due? Io penso due. Lui si diverte. Due. Tre? Che ne so? La Madonna. Va bene, a posto. Di qualità. Assolutamente. Una massaggiatrice onesta che fa il suo mestiere. Eppure, stando alle intercettazioni, Bertolaso dice una ripassatina con Francesca, parole che non sono molto terapeutiche. No, le parole sono proprio terapeutiche, perché Bertolaso soffre di una cervicale e di una contrattura sulla colonna vertebrale. Potrà non essere tecnico, ma certamente terapeutico. Una ripassata, insomma, era per la cervicale. Era per la cervicale. Chiaramente un massaggio sulla cervicale. È bello che poi la scoperta della sindrome di Achille divide gli osservatori appunto della pugna sotto le mura di Troia in due grandi tronconi, quelli che si scandalizzano, si strappano le vesti, dice, ah guarda Achille al suo tallone vulnerabile, mentre gli altri dicono beh saranno cavoli suoi, ma che ci importa, ma che ci frega, ma se lo faccia, anzi perché bisogna ricorrere a tutti questi sotterfugi, a tutte queste maniere di voler velare qualcosa che potrebbe far tranquillamente, non cambia l'idea e la percezione di una persona anche pubblica, sapendo che fa quello che ognuno di noi fa poi nella sua vita privata. 800 24 00 24, cominciamo a ragionare sulla sindrome di Achille. Anna, buongiorno. Buongiorno. Brava, lei è la prima che mi porta un importantissimo reperto. Sì, perché il caso Montesi, nato nel 50, io non ero ancora nata, però i giornali che ho trovato di mio padre, perché i gazzettini, allora fu uno scandalo enorme, perché anche lì fu a base di cocaina e poi la Montesi la misero sulla spiaggia di Torvaianica, perciò non c'è niente di nuovo sotto il sole. Sì, ma per dire, vede, lei ancora si ricorda qualcosa che è accaduto decenni fa, della Brendona già si è dimenticato il mondo, per dire, oggi siamo talmente ormai abituati alla ripetizione, quasi un modulo dello scandalo politico beccato con trans, con escort, con brasiliane, con romane, con bolognesi, con tutta una serie di personaggi in queste circostanze, le intercettazioni sceneggiate, quelle che abbiamo mandato noi, non sono operazioni teatrali fatte dai nostri speaker, sono servizi di telegiornali. I telegiornali hanno trovato una nuova formula, una nuova maniera per trattare la realtà, che è la fiction delle intercettazioni. Lei pensi, dietro questa sindrome di Achille, quale meraviglioso mondo si scopre nell'individuarla, nel colpirla, nel sentirsi diversi. Dottor Nicoletti, non c'erano tutte queste cose tecnologiche, ma lì c'era un mondo, un'altissima borghesia, c'era di mezzo il principe d'Assia, attrici, agli davali, perché il processo poi fu fatto a Venezia, c'era Piccioni, insomma. Lei si ricorda tutto, significa che fu un momento epico, il momento epico è un momento unico. Sul gazzettino, perché il processo fece un sacco di... Sì, ma lei sta ribadendo quello che sto dicendo, lei se lo ricorda con questa veemenza, con questa passione, perché allora fu un momento epico, quindi raro, quindi unico, quindi una punta che usciva dalla realtà. Oggi la sindrome di Achille è qualcosa che costantemente è grande materia di trattazione giornalistica. Ma siccome ho parlato di sindrome, e non a caso ho parlato di sindrome, perché è qualcosa che attiene probabilmente a una sfera che entra nel campo forse di alcune psicopatologie, non so se dico qualcosa di sbagliato, ho in studio Mauro Cosmai. Mauro Cosmai, buongiorno. Buongiorno. Psicoanalista, sessuologo, docente universitario, autore dei Tabù della modernità, edizioni Armando 2008, e Psicopatologia della vita politica, Club 2002. Quindi Mauro Cosmai, che io conosco, con quale infatti mi darò del tu, per non fingere quella terrificante moda marzullesca di darsi del lei con le persone che magari si è preso il caffè fino a 5 minuti prima. Cosmai, ho detto qualcosa di esagerato ascrivendo la sindrome di Achille a un quadro psicopatologico? Beh, i confini tra confini tra psicopatologia minore e maggiore sono ormai abbastanza labili. Io ho individuato questa sindrome di Achille. L'hai inventata te la sindrome di Achille? Sì. Anche perché le condizioni cominciavano a essere più evidenti, ripeto, dai casi isolati. Diciamo che può essere patologia non maggiore nel momento in cui la persona, perché la sindrome è una serie di componenti, di situazioni, di atteggiamenti e di percezioni che portano diciamo anche a volte a un'assenza di critica, perché la sindrome di Achille non riguarda soltanto il politico di professione che per antonomasia è il più potente, ma può riguardare anche un direttore di carcere, un amministratore, persone che pensano di essere arrivate a un certo punto e di avere veramente una sorta di invulnerabilità che è data non solo dalla posizione, poi se avrò tempo, ma anche dall'equazione sapere potere, che è cambiata nel tempo, se posso accennare. Sì, significa. Cioè, una volta il sapere coincideva col potere, lo sappiamo tutti, era ben noto, cioè chi sapeva di più di solito deteneva il potere, chi sapeva il latino negli atti notarili fregava chi non sapeva il latino. L'equazione sapere potere è ancora valida, ma si è trasformata, cioè il sapere riguarda il fatto di sapere degli altri. Più il politico, più il personaggio pubblico, più il terrorista, più chiunque ha un suo archivio personale, e noi sappiamo di archivi personali sterminati, di noti grandi politici del passato, processati, con diciamo pseudo assolti, che poi non è vero, eccetera, eccetera. Quindi è stata cambiata, cioè più so di altri e meno sarò ricattabile. Il dossieraggio è il vero scettro. Questo è il del sapere, potere. Questo è il non è più il sapere culturale, è il sapere. Informazioni sugli altri. Informazioni sugli altri che può determinare una sorta di invulnerabilità. Quindi io più so dei tuoi peccatucci personali, più ti avrò nelle mie mani, più tu sarai un mio fedele esecutore. Questo, spalmato su centinaia, migliaia di persone, dà il senso del potere. Infatti molte energie vengono spese, io vedo anche, perché mi interesso di psicologia politica da molto tempo, vengono spese proprio nell'accumulare, nel sedimentare, nello stratificare informazioni non soltanto legate ai problemi oggettivi, ma legate alle persone che circondano questi... Senti, secondo te come mai proprio queste informazioni, queste maniere di acquisire strumenti di potere, va molto spesso poi, al momento che poi escono queste cose, girano, circolano molto facilmente, a toccare la sfera intimo-sessuale delle persone? Perché noi viviamo in un paese provinciale per tradizione, che è rimasto comunque provinciale, nel senso che il fatto di fare leva proprio sull'aspetto sessuale diventa poi una condizione ambivalente. Mi spiego meglio. Da un lato serve perché per muovere l'opinione pubblica in questo paese occorre comunque, anche per una tradizione religiosa sessuofobica, occorre comunque avere la componente sessuale. Allora in tal caso la cassa di risonanza è più facile essere messi all'indice, che il soggetto sia messo all'indice dei ben pensanti generali, del buon senso comune, del pudore e via dicendo. Quindi toccare lì c'è sempre qualcosa, c'è, però è come un po' quelle chiacchiere dei vitelloni dei paesi che stanno al baretto e ognuno parla delle corna di quello che passa, e appena si alza se ne va e paga il caffè, diventa lui il soggetto delle chiacchiere sulle corna sue vissute e passivamente, attivamente. Luca, buongiorno. Salve, andiamo. Volevo riferirmi al discorso lì di Bertolaso, cioè nel senso che siamo proprio annegati nell'ipocrisia più assoluta, perché recentemente una trasmissione... Facciamo un caso come un altro, io non voglio entrare in merito perché non ho in questo momento gli strumenti. No, assolutamente, sì. Un caso come un altro. Poi ne parlano tutti. No, in una recente trasmissione televisiva su un canale privato vedevo che da un sondaggio emergeva che i due terzi degli uomini adulti nel corso della loro vita adulta sono passati tra le mani o di massaggiatrici o di prostitute di presunte età. Non ci provo proprio nulla di strano, ma al di là di questo il punto focale è un altro. Un personaggio pubblico come può essere quello sopracitato o un altro, ma non penso che il problema grosso sia il 50 o il 100 euro di andare tra virgolette con una puttana. Ma qual è il grosso problema? Voi pensate che un personaggio pubblico che prenderà decine di milioni di euro di stipendio al mese, il suo problema sia lucrare il 50 o il 100 euro per farsi fare un massaggio o per andare con una prostituta? Voglio essere sincero con lei, lo sa che ci ho pensato anch'io? Io pensavo, se io fossi ricco e potente e impunito quanto voglio e volessi togliermi degli sfizi di questo tipo, lo dico in grande tranquillità, come cosa farei? Beh, innanzitutto farei di tutto per non entrare in questa rete delle intercettazioni, quindi eviterei di chiamare al telefono qualcuno per dire senti, trovami la brasiliana o la Francesca o Pinca Pallina per fare il massaggio. Stare zitto. Innanzitutto delocalizzerei la mia persona, andrei in un posto dove magari sono meno conosciuto, se incontrato per strada e tutto. Poi, potendo pagare, avere possibilità, andrei in un grosso albergo anonimo, enorme, gigantesco, quelli con grandi stanze, intercomunicanti, che nemmeno chiedono quando uno entra dove va. Sei talmente grande, quando entri lì c'è il profumo dei soldi. Poi una volta sistemato lì, prenderei un'altra stanza, un'altra persona, sempre bella, lussosissima, così cercherei questa persona e in qualche maniera la convocherei nello stesso posto e farei in modo che senza che nessuno ci veda entrare o uscire assieme consumerei questo mio vizio, ma non andrei mai in un luogo pubblico dicendo isolate tutto, chiudete tutto, fermate tutto, creando una situazione anomala. Cercherei di consumare la mia personalissima anomalia nella più normale delle persone, delle situazioni, non è d'accordo? No, sono d'accordo, volevo fare un esempio che riguarda lei. È come se lei domani decidesse di andare con una prostituta e allora cosa fa? Prende il tecnico audio lì di Radio 24 e gli dice senti, guarda, facciamo una cosa, organizzami te perché io domani voglio spendere 100 euro con una prostituta. E Chiappini si darebbe subito da fare, non chiederebbe di meglio. Mi sembra talmente idiota come possibilità che non riesco a entrare nella problematica. Sì, però allora, vediamo come la spiega il nostro ospite in studio, perché lei si pone il problema che tutti espongono. Esuliamo dal caso specifico, che ne avremo decine a disposizione se vogliamo. Tutti si chiedono, cioè, è tanto semplice se uno vuole consumare un atto carnale situazioni di segretezza. Hanno detta uno può andare a fare un viaggio in un'isola lontana, prende un aereo, va in un paese dell'est dove nessuno ti conosce. Cioè, se vuole, gli sfizi se li toglie come vuole. Come mai uno va in un posto così pubblico, così creando questo casino, questo apparato di lenoni, di persone così? Rientra nella sindrome di Achille? Assolutamente sì, perché come dicevo prima, il fatto dell'insistere sull'aspetto sessuale, che può giocare un ruolo importante per certi disegni di tipo politico o comunque, diciamo, contrattuale, però è una situazione ambivalente. Perché? Perché la persona più libera dice: il potente può fare quello che vuole a livello sessuale purché faccia il suo dovere, e quindi già si pone. E poi un'altra cosa che è importante: questo tipo di sottolineatura può anche spesso sviare da quelle che poi sono le componenti oggettive, quindi il furto, la corruzione, che è molto più grave, che è effettivamente più grave di quella vera. Quindi fa un pochino anche il gioco stesso di quelle persone che poi tuonano sentendosi progressisti: ma che mi interessa a me se quello ha un tipo di attività sessuale di un certo tipo, voglio sapere se ruba, se specula sulle siccome noi viviamo in una società, in una tradizione culturale che per certi versi, è inutile negarlo, fa paura, perché è di un provincialismo e di una grettezza incredibile, ecco che allora si crea questa situazione ambivalente. Cioè, in cui si può chiudere un occhio se si rubacchia, perché vabbè, e piuttosto si è tutti pronti a ergersi con il dito puntato se va a farsi fare un massaggio alla cervicale. E non è proprio la cervicale. Beh, l'esempio di Clinton, per esempio, a suo tempo fu significativo. Ma perché lui mentì, lui disse che non era vero. La maggior parte della gente, perfino insegnanti, professori, soprattutto in questo caso anche, mi ricordo una ricerca, donne, insistevano sul fatto che lui avesse avuto dei rapporti sessuali, orali, con questa Monica Lewinsky, non che avesse mentito, avesse... Quando invece il vero motivo era la menzogna. Era sì. Quello. Dice, no, vedi, l'hai fatto. Come ha potuto tradire... La povera Ile, eccetera. Vabbè. Melog 2.0. Mai pagato una donna. Silvio Berlusconi affronta il caso D'Addario e dalla sua versione dei fatti. Secondo il Presidente del Consiglio, la donna ha avuto un mandato molto preciso e benissimo retribuito per colpirlo. Un'accusa subito smentita dalla diretta interessata. Non ero informato dei fatti, non sono stato oggetto di ricatto, e tutte le altre illazioni di cui ho letto, a mio giudizio, sono false. Vorrei ricordare che continuerò a essere presidente con serenità e rinnovata determinazione, non lasciandomi evidentemente intimidire, però come uomo evidentemente mi faccio delle domande. Siamo sempre insieme, siamo sempre insieme, almeno. Avete sentito un'altra sventagliata di episodi legati ad attività intime di personaggi politici, raccontati, ventilati, sviscerati, confermati, smentiti. Comunque questa è la materia che ci fa riflettere questa mattina sulla sindrome di Achille. La sindrome di Achille, quella dell'eroe potente e invulnerabile, che si sente talmente potente e invulnerabile, sostenuto appunto dai suoi divini natali, che a un certo punto si dimentica che ha un tallone che in realtà non è invulnerabile, e su quel tallone in questo momento tutti vanno a lanciare la loro freccetta. Ne stiamo parlando con Marco Smai, psicanalista, sessuologo, docente universitario, è stato autore dei Tabù della modernità, edizione Armando, e Psicopatologia della vita politica del 2002. Cosmai, ci stavamo riflettendo prima su alcuni particolari che forse tendono a confermare questa diffusa sindrome di Achille. Ci riferivamo proprio alla questione della fisicità, della corporeità, dei tabù legati alla fisicità. Sembrato in una delle smentite che abbiamo fatte prima, degli aggiustamenti proprio sul caso Bertolaso, che potesse essere una buona via d'uscita rispetto all'accusa di aver consumato atti sessuali prezzolati, il fatto che la signora avesse avuto attenzioni manipolatorie alla cervicale dell'uomo noto, di Achille in questo caso, e non magari all'organo sessuale. Cosa cambia fra cervicale e pisello? Beh, cambia nella nostra tradizione. Noi sappiamo che in certi massaggi orientali sappiamo benissimo che nello stesso massaggio viene compresa anche la masturbazione, perché sembra, e questo è nella filosofia del massaggio, la persona deve liberarsi di tutti gli umori, tra i quali è compreso il liquido organico, per cui dovrebbe rilassarsi. E poi, d'altra parte, anche in sessuologia abbiamo dimostrato, al di là di ideologie più o meno limitative, che il sesso ha anche una funzione di rilassamento. Quindi un giapponese che in questi giorni passasse per l'Italia, leggesse giornali o sentisse televisione, rimarrebbe perplesso, beh, qual è la differenza? Beh, nella tradizione giapponese c'è una realtà sessuale che è molto diversa dalla nostra, cioè molto spesso, se ne parlava un attimo fa, la moglie di un anziano, sia pure potente, sa perfettamente che c'è, chiamiamola geisha, anche se il termine è improprio, ha un amante con la quale spesso è in buoni rapporti, addirittura le manda i fiori per il compleanno, perché dice: questa può dare a mio marito quello che io a 70 anni non gli posso più dare, fermo restando che poi la coppia resta unita. Questo è il classico matrimonio, il vero matrimonio metasessuale. Noi sai che rischi problemi. La lapidazione quando uscirai da questa stanza sostenendo questa tesi, però stiamo raccontando ci sono abituati. Realtà che esistono. Mario Stinchelli mi scrive su Facebook, dice: questi signori soffrono non della sindrome di Achille ma della sindrome di Superman quando la criptonite è finita. Tommaso, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì, ecco, volevo intervenire appunto sul politico che è stato trovato positivo. Ecco, io ho pensato che potrebbe anche avere fatto quello che avrei fatto io al suo posto, ci avevo già pensato anche prima, se fossi stato un deputato, e cioè di farsi trovare positivo, magari non essendo affatto un utilizzatore di cocaina, eccetera, ma che per quella volta l'abbia usata per farsi trovare positivo. Come provocazione contro una iniziativa demenziale. Quindi diciamo che è un rivelatore di un tallone di Achille, di un Achille simbolico grande che rappresenta tutto il Parlamento. Guardi, è un'ipotesi possibile, anche Gramellini lo dice in un suo pezzo ironico, divertito, averlo fatto per far tremare quelli che non hanno fatto l'analisi. Non credo che faccia bene comunque un nuovo politico avere un certificato accertato di positività di test antidroga. Non credo che gli gioverà, anche se il nome non uscirà, o forse uscirà, faranno in modo che uscirà o non uscirà mai. Non credo queste cose giovine facciano bene. Pino. Allora, volevo intervenire in questo senso, magari fuori tema, non lo so, cioè dicendo che si parla sempre della sessualità dei politici in questo momento particolare, ma dell'uomo in generale, no? E mai quella della donna. Gli uomini sono sempre i puttanieri, quelli che vanno in giro a scopare, a farsi fare massaggi, ma sì. Le donne non fanno mai nulla, le parlamentari, le direttrici di azienda, così, non hanno nessuna sessualità. Beh, probabilmente non è che non l'hanno, posso dire una cosa, probabilmente sono molto più brave a gestire il loro tallone di Achille, in questo sono meravigliose le donne, gli uomini sono talmente sprovveduti, si fanno colpire nel punto vulnerabile, sappiamo benissimo, supponiamo, ci auguriamo anche per la gioia delle donne parlamentari, politici, industriali, imprenditrici che lo facciano, ma sono brave, lo fanno senza che nessuno se ne accorga, senza che nessuno possa incastrarle, lo fanno nei tempi giusti, nei modi giusti, in modalità segrete che soltanto le donne sanno fare. Cosa ne dici, Cosmai? Beh, innanzitutto è una lotta impari. Noi sappiamo che nella nostra realtà la donna può ottenere molto più facilmente dei favori sessuali rispetto a un uomo, per una è indubbio questo. Legge banalissima che è inutile che io sottolini, della domanda e dell'offerta, cosa che non c'è in altre nazioni. Per quanto poi noi abbiamo anche una nota giornalista che è stata anche ha passato i guai per molestie sessuali nei confronti di un uomo, come nel famoso film con Michael Douglas. Quindi di solito però si muovono meglio, anche perché hanno meno difficoltà a poter ottenere ciò che vogliono rispetto all'uomo che deve correre. In questo senso la escort è stata, adesso chiaramente perde colpi, è stata una sorta di status symbol, cioè se io sono potente, politico o meno che sia, posso avere queste ESC e soprattutto non devo andare io al limite, ma me le portano addirittura, cioè non devo neanche muovermi io personalmente. Sì, c'è una sorta di sindrome sultanesca di avere, ecco, mi viene i ruffiani portaborse che ti portano le ragazze e te le mettono sotto lì. Luisa, lei cosa ne pensa? Sì, ecco, io volevo intervenire proprio in questo senso. Beh, io credo che più una persona arrivi un altro sulla scala sia economica, di potere, eccetera, assume dei privilegi. Assume dei privilegi, ma anche le persone con le quali ha a che fare, gli danno volentieri questi privilegi. Ecco, io ho per esempio un'esperienza, mio marito è un professionista, è un odontoiatra, e vedo che più le persone, i suoi pazienti così, arrivano da certe cerchie e più in qualche modo pretendono questi privilegi, privilegi di avere uno sconto, privilegio addirittura di non pagare. E addirittura. È un sistema di fatto. Cioè una persona nota dice al dentista non ti pago. No, me lo dica perché siccome ci vado almeno due volte a settimana. Pago, però in un certo modo, poi ti dice ti mando dei pazienti. Ah, ecco, tu hai un tal privilegio di immagine, di esatto. Brand per il fatto che io venga da te e vuoi anche che ti paghi. Esatto. Grazie a Dio che vengo, così metterai sulla tua lapide, ci viene anche l'onorevole Trombetta a esatto. Farsi la dentiera. Ah, ho capito perfettamente. Ecco, molto bene. Un'assunzione di privilegi con la carica. Ecco, che naturalmente dimenticano che anche questo rivela un tallone di Achille, però queste cose potrebbero venire al pettine, si potrebbe comunque anche in questo creare delle loro trovare delle loro vulnerabilità. Gianna. Sì, buongiorno. Ho chiamato perché ascoltavo la vostra trasmissione e un po' un quarto d'ora fa, 20 minuti fa, un ascoltatore si chiedeva perché un uomo potente e ricco, politico o non politico, comunque un uomo potente e ricco, non posso organizzarsi da solo a riparo da ogni indiscrezione degli incontri con prostitute o massaggi. Ma anche perché l'abbiamo detto, basta andare in un grande albergo, basta esatto. Dirlo al portiere, ti arriva tutto tranquillamente, senza io problemi. Io credo che veramente sia la cosa più facile del mondo organizzarsi da soli in questo senso. Ma non potrebbe essere semplicemente perché in questo modo il loro ego... dovrebbe ammettere di dover pagare di pagare una donna. È l'illusione, quindi, di essere dei conquistatori. Esatto, lei ha detto una cosa seduzione. Molto giusta. Può essere benissimo. Io no. Questa è la mia impressione. Quella poi di poter dire io non ho mai pagato una donna, io le donne le seduco. Ah, ecco. No, questo potrebbe, io non so, non entro dentro in questa mentalità, però lei dice acutamente che potrebbe derivare dal fatto che in realtà il loro tallone di Achille si dimentica proprio dal fatto che te le mandano intorno e tu pensi che sono delle persone che ti hanno visto e sono rimaste fulminate. Marianna Aprile. Buongiorno. Ti ho fatto ascoltare tanto, scusami, ero preso un po' dalle ascoltatrici. Marianna Aprile, la mia carissima collega di Novella 2000, che è a Sanremo, che si intende tantissimo di talloni di Achille, anzi, il tuo mestiere è infilarci la penna. Sì, il mio sì. Ma guarda, io in realtà volevo un po', come dire, tirare le fila delle cose che avevate detto e ricordare un paio di episodi. Per cui allora senti Marianna, scusami, so che... Mio direi per questo, ma le file dobbiamo tirare fra un minuto, che devo mandare velocemente le informazioni del traffico che ho dimenticato di mandare per mia massima colpa. Tra un istante avrai tutto il tempo per te. Melog 2.0. Ciao amore mio, eccola la tua porcellina, che viene a vedere quanto sono bella? Mi chiamo Carmen, ho la terza misura di reggiseno, un c***o bellissimo e poi facciamo tutto. 69, trapezio, sponda, francesina, spagnola e anche forchetta ungherese. Non è importante quello che faccio, ma come lo faccio. Io batto la concorrenza e in tutti i sensi. Amore, ci possiamo vedere tutti i giorni, dalle 10 di mattina alle 18, escluso il sabato e la domenica. La forchetta ungherese, perfino. Marianna Aprile. No, mi ha un po' spiazzato con la forchetta ungherese. Ecco, io me lo sto chiedendo adesso, cos'è la forchetta ungherese? Però non vedi lo che so, ma passiamo a un'altra. L'esotismo trionfa. Ecco, questa comunque è la materia di cui stiamo parlando. Alla fine il succo è questo. Diceva il mio ospite Cosmai che trova molto più onesto il personaggio noto che comunque va con un escort, paga una amministratrice di forchette ungheresi, piuttosto che quello che giocando sul potere circuisce la segretaria, la borsista, la stagista, regista, la ragazzetta che incontra per strada e rimane abbacinata dal potere. Non sei d'accordo? Guarda, io proverei a ribaltare la visione, nel senso che in realtà... Attento a ribaltare, sono termini in questo momento molto pericolosi. No, la visione. No, ma in realtà tutto questo, diciamo, questo iterattivismo dei talloni d'Achille sparsi in Parlamento e in zone limitrofe, in realtà a me sembra un grande segno di debolezza, cioè il politico che in qualche modo si inguaia per seguire le proprie inclinazioni sacrosante, per carità, ma fedifraghe o trasgressive, si rende in qualche modo attaccabile. Ora, la storia italiana è piena di politici rovinati da cose simili, anche come strumentalizzate da servizi segreti, da avversari politici, sì, eccetera. Però è cambiata la qualità del politico che si inguaia, a mio avviso. Mentre nel 63, quando uscì la foto di Scelba con una cara amica in via Veneto, che si limitava a bere una bibita fredda, uscì pubblicata su un giornale che faceva riferimento alla corrente democristiana avversa a quella di Scelba, Scelba capì l'antifona e iniziò a rigar dritto, non ci fu la scissione della DC. C'era una maggiore consapevolezza del proprio ruolo politico. Bastava un piccolissimo segnale, bastava. Esatto, escono le registrazioni della Daddario e non cambia nulla, quindi questo in qualche modo alimenta più che il senso di potenza, il senso di impunità, che non è necessariamente un senso di potenza, cioè è un dare per scontato che le proprie debolezze non debbano avere conseguenze. Ma in questo, cioè al cambiamento, diciamo, della composizione morale, etica, eccetera, del politico, è cambiata anche la qualità delle persone che gli stanno intorno. Cioè, accanto a un... Ma posso dire anche una cosa? Cambia anche la qualità dell'oggetto del desiderio. Ragazzi, delle cose inguardabili sono... poi alla fine... Non mi toccare Nathalie. Gli esseri umani... So che tu hai reso celebre Nathalie al mondo, però con tutto il rispetto, se uno deve fare una botta di vita rischiando il posto, la testa e tutto, perché deve farlo? Mi verrebbe più di essere complice di questi signori se andassero con la signora della forchetta ungherese, piuttosto che con questi esseri. Poi li vedi tristi, ormai sono diventati dei grandi protagonisti di tutti i talk show. Prima c'è stata la corrente dei trans, adesso c'è la corrente delle escort. L'altro ieri a Tetris c'erano un gruppo di escort organizzate, sindacalizzate, che rivendicavano il loro diritto di escortizzare. Ma sono delle tristissime categorie ormai professionali, non c'è nulla del fremito della trasgressione. Questo sicuramente, però il fremito e la trasgressione a quel punto arrivano non tanto dalle forchette ungheresi che eventualmente ti diletti a fare con la signora o il signore, ma dal fatto di sapere di scoprirti in qualche modo. Però ritornando al discorso di prima, cioè tutto sta nella capacità di scegliersi il proprio entourage. Cioè, io ricordo con un certo fremito una frase di Letta all'indomani del guaio di Casoria, della festa di Noemi Letizia. Letta disse: se avessi saputo dove stavo andando mi sarei sdraiato davanti all'aereo. Ora, per un Letta che tenta, come dire, di arginare le debolezze, o quantomeno di renderle prive di conseguenze nei limiti del possibile, ci sono decine di lacchè che invece alimentano queste debolezze, anzi le anticipano, soddisfandole senza che neanche gli venga richiesto, come nel caso sembrerebbe dalle intercettazioni di Bertolaso, le anticipano perché così acquistano punti e acquistano strumenti di ricatto. Ma tu sai benissimo, ma non accade soltanto nella politica, esistono trasmissioni televisive studiate apposta per fare il passaggio delle signorine che poi distribuiscono le loro grazie in giro per i produttori, i dirigenti. Non dimentichiamo che a Milano c'è Frank Di Maio che sta appunto indagando su una cosa assolutamente paragonabile che si svolgeva in ambiti giornalistici dello spettacolo e anche politici. Se tutte le ipotesi che Di Maio fa sono fondate, o se ne fosse fondata anche solo una parte, saremmo di fronte a un sistema di raccolta dati da usare al momento opportuno, anche nei confronti di persone che, perché attenzione, cioè, le foto di Lapo di cui parlavate prima, al di là del fatto che Lapo è un personaggio conosciuto, ma non è un personaggio pubblico, non è un personaggio che ha responsabilità pubbliche. Quindi fa quello che gli pare. Esatto, in più è andato a fare quello che gli pareva a Parigi. cioè è quello che dicevi tu, andate in un posto dove sì, solo Capodice ormai guarda Maranda è inflazionato, io conosco dai dirigenti della grande azienda che prima frequentavo, dai ragionieri, chiunque oggi ha uno straccio d'amante o diamante o di piglia va a Parigi. A Parigi c'è un traffico di italiani ridicolo che consumano i loro piccoli adulteri. Vorrei sentire però un attimo Giancarlo. Giancarlo. Sì, buongiorno. Lei si ritrova, finalmente abbiamo un Achille consapevole del suo tallone. Assolutamente sì, diciamo che quando uno si trova a scalare diciamo la scala sociale e a posizioni di comando. A lei è toccato? A me è toccato, a me è scattato quello che io ho chiamato poi a posteriori delirio d'onnipotenza. E cosa ha fatto di inconsapevolmente folle? Beh, di consumare folle niente di particolare, ma no, trans, escort, queste cose qua no. No, niente di tutto questo. Però ero convinto che tutto mi sarebbe stato lecito, tutto mi sarebbe stato possibile, qualunque cosa, dal trattare male la gente, dal licenziare le segretarie. Questo cos'mai è la conferma della tua teoria. Sì, qui abbiamo un Achille consapevole che di essere totalmente invulnerabile, ma adesso si è accorto che aveva un tallone. Sì, è chiaro. Poi qui rischiamo, però una cosa velocissima vorrei accennare, rischiamo anche inconsapevolmente di ricadere nella nostra tradizione sessuofobica. Vorrei ricordare, senza fare apologia, che esiste anche un sesso con piacere fuori della trasgressione, fuori del senso del proibito. Certo, sia ben chiaro. Tutte le mogli in ascolto, i mariti in ascolto ti ringrazieranno, quindi, saranno felici. Ringrazio Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini, ti seguo la parola perché la trasmissione è finita. A domani. Anzi, lasciate lunedì un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.